l'altra Europa. È un giorno storico per la Croazia e per l'Unione, così Barroso ha detto ieri commentando il via libera dato dalla Commissione all'ingresso dal 1 luglio nell'Unione Europea della Croazia. Insomma, un giorno di festa per noi che siamo qui, un programma che parla di Europa. No, è come avere, che ne so, un alunno in più in classe, un amico in più che viene a giocare con te a calcetto. Insomma, seguiremo l'entrata della Croazia nell'Unione Europea, ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate. Adesso ci sono ancora un paio di passi formali, ma la cosa è fatta e Barroso l'ha detto, speriamo sia un esempio per gli altri paesi dei Balcani, elogiando il lavoro fatto da Zagabria. Buongiorno da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 ed è il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, un'Europa che parla di cui raccontiamo l'attualità, di cui raccontiamo le notizie più importanti, ma cerchiamo anche altre notizie e altri punti di vista. Euronet.eu è il sito del network europeo al quale apparteniamo come Radio 24 e con l'altra Europa. Le coordinate per intervenire in diretta via sms al 349-238-6666 oppure attraverso le nostre pagine in Facebook che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati, facebook.com/l'altra Europa. E il nostro viaggio di oggi parte dalla Svezia, dove insomma il tema un po' di queste settimane è una sorta di bunga bunga nordico. Det har ju framkommit uppgifter om att det skulle kunna finnas bilder som kan vara komprometterande på kungen. Vad säger ni om det? Framkommit, ja. Jag har också sett delar av det i TV4. Och vad ska man svara på det? Ingen har ju sett bilderna. Lui è re Carlo Gustavo di Svezia, intervistato, è andato in televisione per smentire le accuse di questi mesi, insomma accuse che raccontano un re allegro, un re festoso, un re che pare che insomma per anni abbia organizzato, partecipato a questi festini, insomma uno scandalo a luce rossa che ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica. Per capire cosa è successo e soprattutto cosa sta succedendo, abbiamo invitato Cristina Kappelin, corrispondente del quotidiano Dagens Industri e della televisione pubblica svedese. Ciao Cristina, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Era un po' imbarazzato il re in televisione, vero? Molto. E non risponde bene, effettivamente, perché lì la questione è: ci sono o non ci sono le foto di queste feste? Mm-hmm. Perché il sospetto è questo. E lui dice: non credo proprio, non penso, nessuno le ha viste. Io, insomma, è molto poco chiaro, ecco. Molto vago. Infatti, perché insomma è uno scandalo non nuovo, nel senso che il tutto nasce con la pubblicazione di un libro qualche mese fa, giusto? Guarda, il tutto inizia a novembre dell'anno scorso, quando esce un libro che si chiama, in italiano sarebbe Il re reticente, perché effettivamente lui diventa re perché è l'unico erede maschio del vecchio re, ma è una persona timida, effettivamente si esprime male in pubblico, ha addirittura problemi di dislessia, per cui insomma è uno che probabilmente avrebbe voluto fare tutt'altro. Sì. E in ogni caso lui appunto è noto fin dalla giovinezza di fare un sacco, festeggiare molto. E esce allora fuori che lui insieme ai suoi amici, spesso in appartamenti che apparentemente appartenevano di personaggi del diciamo underground criminale di Stoccolma, facevano delle feste e facevano arrivare le ragazze all'ora del caffè, per cui queste ragazze venivano chiamate le ragazze del caffè. Mm-hmm. E poi appunto i dettagli sono pochi e a dire il vero il libro si basa soprattutto sulla testimonianza di una di queste ragazze che apparentemente è stata l'amante del re a lungo. E comunque ovviamente scoppia uno scandalo e stranamente il re, dopo la caccia dell'alce, che da noi è una specie di istituzione, lui esce fuori davanti a tutti i giornalisti come sempre e dice semplicemente: adesso cambiamo tutto. In qualche modo tutto il popolo e la stampa e l'establishment accetta questa cosa, c'è la povera regina dietro con un'espressione sulla faccia a dir poco d'alce, direi in questo caso, sì, con le corna almeno sono quelle, sì. E in qualche modo lì finisce la prima parte e poi arriva la seconda, che infatti questa volta si tratta di un altro libro, questo è Adesso in primavera, un libro che parla soprattutto di un personaggio, apparentemente un personaggio noto appunto nella criminalità di Stoccolma, ed è lui che racconta allo scrittore del libro, o lo scrittore del libro si dice di sapere che ci sono delle foto di queste feste, e si mette in moto un amico del re per cercare queste foto attraverso altri personaggi poco rappresentabili o presentabili, e questo viene fuori. E allora il re lì, nell'intervista che abbiamo sentito, lui deve rispondere a domande tipo: come mai suo amico ha cercato queste foto, ci sono o non ci sono, che cosa c'è dietro? E lui dice di non sapere niente, che il suo amico ha sbagliato, che lui effettivamente non è più amico di questa persona, ma questa volta la reazione dell'opinione pubblica è più forte. Perché questo, intanto abbiamo già pubblicato in Facebook l'intervista al re, la potete vedere, insomma c'è un re assolutamente imbarazzato, e tutto il mondo è paese, no? È un po' anche il pensiero comune che ci viene ascoltando quello che ci stai raccontando, però ecco, qual è stata la reazione, a parte la reazione della regina, che pochi giorni fa si è presentata senza l'anello nuziale al dito, e so che questa cosa è stata particolarmente apprezzata dal popolo, però il popolo cosa dice, cosa pensa? Guarda, ho guardato per voi vari sondaggi e sai com'è, che leggi 5 non capisci assolutamente niente, però quello che si capisce chiaramente è che comunque la popolarità della monarchia sta scendendo, questo è effettivamente un trend che va avanti da 10 anni circa, ma dopo questo ultimo scandalo, per dirti, a febbraio 74% degli svedesi volevano ancora la monarchia, adesso 66, e per quanto riguarda il re, adesso 44% dicono di voler che lui abdicasse in favore della figlia maggiore, che comunque deve diventare regina dopo di lui, Victoria si chiama, che è la persona della famiglia più amata, è una ragazza gentile, simpatica, sorridente, che l'anno scorso ha sposato un ragazzo del popolo. E tutto questo ha aumentato la popolarità. C'era infatti una festa, sì, abbiamo seguito anche in diretta il matrimonio, avevamo un nostro inviato là tra gli invitati e, grazie davvero Cristina, insomma ci hai dato una fotografia della situazione, ma sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa per capire gli sviluppi, perché insomma ci piace conoscere anche le opinioni pubbliche, quelle che sono un po' così le reazioni, no, sui cittadini, che sono quelli che alla fine poi fanno l'Europa. Ciao e buon sabato, grazie Cristina. Spanish cucumbers were initially thought to be the cause of the European E. coli outbreak that's killed at least 22 people. Even though tests showed they weren't to blame, the vegetable remains unpopular. Romanian farmers have seen their sales collapse at home and abroad, and one farm manager says they're losing around €100,000 a day. Tutto iniziò con un cetriolo che poi divenne un salame di cervo, infine un germoglio di soia, finalmente pare che l'origine del batterio, insomma, che ha causato questa epidemia in Europa, con tanti morti, tanti contagiati, insomma, siano i germogli di soia e dei legumi, una storia che conosciamo, che stiamo seguendo anche con Radio 24 quotidianamente, ma tutto ciò ha dato lo spunto anche per il tema di questa settimana di Euronet. Lo sapete, ogni settimana scegliamo un argomento comune che poi ogni radio, ogni nazione che appartiene a questo network dà un proprio contributo, un proprio punto di vista. Si è rotta la catena alimentare in Europa? È un po' questa la domanda che ci siamo posti. Come l'Unione Europea tutela il consumatore dalla fattoria alla forchetta? Insomma, ci sono dei controlli? Quando ci sediamo a tavola siamo sicuri a livello europeo? È una domanda grande, insomma, che richiederebbe tanto tempo per dare una risposta. E però volevamo portarvi appunto un nostro contributo, lo facciamo con Raffaello Prugger, che è il direttore di Tecnoalimenti e coordinatore del progetto Traceback, perché c'è proprio un progetto che è nato all'interno dell'Unione Europea per inseguire di fatto, tra virgolette, i cibi, per capire dove nascono, dove si muovono e dove vanno. Buongiorno Raffaello e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Tu quando ti siedi a tavola sei tranquillo? Sì, no, io sono tranquillo a tavola, sì. No, perché il discorso, stavo seguendo quello che dicevi, è un po' dovuto anche al fatto, consideriamo alla dimensione di questo settore agroalimentare, che è enorme. Noi mangiamo 3 volte al giorno, 500 milioni di persone in Europa, e mangiamo circa 700 chili all'anno, per cui pensa che enormità di movimentazione, di alimenti, dal campo fino alla distribuzione esiste, insomma, in Europa. È una cosa enorme, è un sistema molto complesso. Certo. È un sistema molto grande, molto che influenza ciascuno di noi, per cui questo è bisogna tener conto di questa cosa, e se tieni conto di questo e pensi a quello che succede, certo, succedono casi gravi come questo, con delle vittime, assolutamente, succedono altri casi meno gravi, però non è così spesso che succeda qualcosa, insomma, adesso non voglio difendere, c'è molto ovviamente da migliorare, da fare, però il sistema di tutela che esiste attualmente, io penso che assolutamente è valido, anzi è validissimo. Insomma. Perfetto. Insomma, questo già, tu sei un tecnico, quindi è comunque rincuorante. Poi ovviamente stiamo parlando, come hai ben detto tu, di dimensioni immense, di numeri importanti, numeri significativi, quindi qualche falla qua e là diventa quasi inevitabile che ci sia, però si lavora proprio per evitare queste falle. E Traceback nasce proprio con questo obiettivo. Di cosa si tratta? Ci puoi sintetizzare il progetto? Infatti Traceback è un progetto europeo che è partito 4 anni fa con 28 partner e 11 paesi europei partecipanti, finanziato dalla Commissione europea, uno dei principali progetti sulla tracciabilità, per far cosa? Allora, volevo spiegare un attimo la tracciabilità, che è questa capacità di seguire il prodotto lungo la filiera, che è quella catena di imprese, di operatori che permettono al prodotto di arrivare dal campo fino sullo scaffale. Allora, la tracciabilità consente di sapere sia da dove si trova il prodotto lungo la filiera, sia all'indietro, cioè nei due sensi, sia poter capire da dove è provenuto un prodotto, per cui se c'è un problema, da dove è nato il problema, per cui consente, tracciando e sapendo dove è il prodotto, sempre in ogni momento, di capire dove si trova e poterlo richiamare nel caso, ma anche sapere da dove è arrivato, cioè quali sono stati gli operatori a monte, i fornitori, e così riuscire a individuare l'origine del problema. Ora, cosa dice la Commissione europea, la regolamentazione europea? Dice che ogni azienda deve avere obbligatoriamente un sistema di questo tipo, però il sistema è aziendale, ovvero c'è l'obbligo per ogni anello della filiera, sì, di registrare da dove è arrivato l'ingrediente, solo il fornitore a monte e il cliente a valle dove l'ha spedito. Certo. Ovviamente se tu pensi che le filiere sono costituite da una molteplicità di operatori, allora questa filiera rimane, sì, registrata in giro nel mondo, ma è tutta spezzettata, è tutta distribuita, diffusa, e non c'è una unitarietà, una trasparenza, per così dire, per cui questo va migliorato. Allora qui abbiamo, col progetto Traceback, abbiamo già 4 anni fa individuato questo problema e abbiamo detto bisogna operare, inventare un sistema tecnologico, direi, no, proprio non direi, è un sistema tecnologico, uno strumento, sì, di filiera, ovvero dove ciascuno anello della filiera, quasi una impresa, possa aderire, invece di avere il proprio sistemino, aderisce a un sistema più grande di filiera, e per cui registra lì le informazioni sul lotto del prodotto, il codice a barre, quelle cose lì. Questo permette di avere ovviamente una visione, una trasparenza di tutta la filiera, dal campo fino al punto di vendita. Mm-hmm. E insomma, quindi hai il percorso sott'occhio, è quasi, esatto, in tempo reale, ma ed è un progetto che sta già funzionando, nel è senso che è un progetto che ha già prodotto dei risultati. Sì. Ha già prodotto dei risultati, abbiamo un prototipo di questo sistema che è anche dotato di sensori, per cui nei punti critici noi riusciamo a mettere dei sensori che rilevano in modo oggettivo l'assenza, per esempio, di patogeni o la presenza di composti bioattivi positivi, in modo da poter dimostrare questo a chi compra, insomma c'è un'oggettivazione della qualità e della filiera. Certo, insomma, questo può sicuramente aiutare, che abbiamo visto, no, l'importanza del capire l'origine del tutto, insomma, un germoglio di legume trovato in un sacchetto di una fattoria, di un paesino tedesco, insomma, arrivare lì per capire la causa di tutto diventa poi fondamentale per poter agire di conseguenza, per evitare che l'epidemia si allarghi. Adesso, Adesso stanno dicendo ovviamente questi germogli di legumi, però bisogna vedere, perché ovviamente è così complesso il sistema, e anche il battero, se pensate, non è un contaminante chimico che io lo ritrovo, è un coso, è un organismo vivente, cioè è un organismo che può morire perché non lo ritrovo più, oppure si moltiplica, si propaga, e cambia e si diffonde. Per cui è una cosa molto difficile risalire all'origine. Certo, però insomma il vostro progetto è nato proprio per questo. Grazie, esatto. Davvero, grazie davvero Raffaello. Raffaello Prugger, direttore di Tecno Alimenti e coordinatore del progetto Traceback. Buon lavoro Raffaello. Grazie, prego. Ciao, prego. Buon sabato. Ciao, ciao. Salve. Quello che state ascoltando è un trailer di una serie televisiva polacca che parla di immigrazione, e non l'abbiamo scelto a caso perché stiamo andando in Polonia, dove anche lì la situazione della disoccupazione giovanile è allarmante, però c'è una sorta di movimento nuovo, di presa di consapevolezza di questa generazione che si sente una generazione colta, una generazione importante, una generazione che ha voglia di fare, ma mancano gli strumenti, e quindi si va a comparare quello che succede se tu sei giovane e rimani in Polonia rispetto a se sei giovane invece vai all'estero e scopri per esempio che le polacche che vanno all'estero fanno più figli delle polacche che invece rimangono nella nazione. Questa cosa ha scaturito tantissimi ragionamenti, tantissimi articoli, anche serie televisive e servizi in TV e giornalistici. Quindi per capire il tutto e avere una fotografia della situazione abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa. Lei è una studentessa polacca in giornalismo a Breslavia e lavora per una radio universitaria, questa cosa del precariato, quindi la vive anche sulla propria pelle. Diamole il benvenuto a Malgorzata Pawlaczek. Malgorzata, il tuo cognome lo sai che non riesco a dirlo perché sembra un codice fiscale per noi italiani. Ciao. Buongiorno. Ciao. E come si pronuncia correttamente il tuo cognome? Allora, si pronuncia Pawlaczek. Okay, è difficile, allora fa niente che pronunci male. Ok, quindi ci sta, insomma, ci sta. Malgorzata, ho semplificato un po' la lettura di quello che sta accadendo in Polonia, e mancano però anche movimenti di protesta, appare, cioè non si vede tutta quella voglia di riscatto che magari invece in altre nazioni europee, insomma, la troviamo, cioè, ne sentiamo parlare, ecco. Sì, hai ragione, non facciamo tante proteste, qualche ci sono state in passato, ma mi sembra che una protesta più grande è questo, che la gente proprio se ne va, mm-hmm. Lascia la Polonia, preferisce stare, vivere in Inghilterra, in Irlanda, in Germania, anzi di fare questa vita un po' povera in Polonia. E quindi una sorta di rassegnazione che poi porta non solo ai cervelli in fuga, no? Che insomma è comunque un problema anche questo, che si può allargare a tante altre nazioni, ma l'Italia in primis, però diventa proprio una voglia di tutti di scappare. Però vedi altre prospettive? Tu per esempio hai scelto di rimanere lì per ora? Sì, perché come ho detto prima, secondo me si sta migliorando un pochino. Anche 2 anni fa, quando tanti queste persone giovani sono andate via, il governo faceva tipo azioni sociali in metro a Londra, sì, con grandi poster tipo tornate, lavoro aspetta per voi, tornate, prospettive si stanno creando, eccetera. Allora mi sa che anche il governo ha capito che risultati saranno dopo questa situazione di lavoro, che tutti i giovani sono andati via. È una cosa molto grave, certo, perché le persone hanno laurea, hanno fatto la specialistica, sono preziosi, diciamo. Eh sì, sono risorse, assolutamente. Grazie davvero Malgorzata, la vostra radio universitaria continua ad andare bene? Sì, adesso facciamo anche il servizio news. Bene. Non sono programmi di autore, ma anche news. Allora ci stiamo sviluppando. Perfetto, in bocca al lupo e grazie davvero come sempre Malgorzata per averci offerto la tua voce lì dalla Polonia. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Europost-it. Viaggio nella nuova Europa con un Monty Python. State preparando il vostro prossimo viaggio? Oppure siete solo amanti della letteratura di viaggio? In ogni caso, non potete perdervi l'ultima emozionante avventura di Michael Palin, ex membro dei Monty Python e ora documentarista di successo per la BBC, che dopo la folle impresa del giro del mondo in 80 giorni e aver attraversato i continenti sulle tracce di Ernest Hemingway, torna con una nuova avventura, un viaggio nelle terre europee. Tra il maggio 2006 e il maggio 2007, con una sosta invernale, l'ex Monty Python Michael Palin si è rimesso in gioco con un viaggio nella nuova Europa. Ha attraversato 20 paesi, dall'Estonia alla Turchia, dai land dell'ex DDR ai Balcani, fino alle estreme propaggini dell'Ucraina, per raccontarci per immagini e per iscritto cosa sia lo spirito della nuova Europa. Potete trovare Viaggio nella nuova Europa di Michael Palin in tutte le librerie. Haberler yoğunlaşıyor. Ekonomist dergisi bu haftaki sayısında Başbakan Erdoğan'a eleştirilerini sürdürdü. Fransız gazeteleri de Başbakan Erdoğan'ın eleştirilere her geçen gün daha da hoşgörüsüz davrandığı yorumlarına yer verdi. Si parla di nuova Europa col libro che vi abbiamo appena segnalato. Abbiamo aperto la puntata parlando di Croazia. Quello che state ascoltando invece è qualche estratto della campagna elettorale in Turchia, appunto a proposito di nuova Europa e dell'Europa che sarà, perché in Turchia domani ci saranno le elezioni, sono elezioni importanti, c'è un numero chiave, questo numero è 367, sono i seggi che consentirebbero a Erdogan, favoritissimo per queste elezioni, di poter fare le riforme costituzionali senza dover appunto chiedere poi il referendum popolare. Insomma, una tappa forse fondamentale anche per l'ingresso nell'Unione Europea della Turchia, per capire quello che sta accadendo e avere una previsione di quello che potrebbe accadere. Abbiamo invitato Yasemin Taskin, corrispondente in Italia del quotidiano turco Sabah. Ciao Yasemin. Buongiorno a tutti e ascoltatori. Grazie, so che sono giorni di fuoco anche per te, vero? Perché insomma sono giornate calde e stai scrivendo. Certo, per tutti noi, per tutti i giornalisti. Yasemin, allora sono le ore prima di questa sì. Votazione di cui si sa già tutto? È tutto già scritto? Ma intanto si sa che Erdogan vincerà, sì. E questo ormai è scontato, inutile quasi dire lui vincerà, ma qui è importante, ecco, come accennavi tu, percentuali, lui se potrà avere questi 367 seggi e quindi avrà una mano forte per fare una costituzione, una nuova costituzione come vuole lui, quindi si aprirà anche la porta del sistema di presidenzialismo per la Turchia, poi sì. Fin dei conti anche per vuole questo, ma poi all'inizio ciò che avete fatto sentire, credo era un TG, sì. Turco, quindi si accennava soprattutto sulla stampa estera e stampa francese, che dove veniva sottolineato la tendenza autoritaria di Erdogan, perché poi il governo di AKP, il partito islamico moderato, e di Erdogan se questa volta verranno avranno terza volta il governo, il potere in Turchia, e quindi c'è anche un certo tipo di aumento dell'autoritarismo da parte di Erdogan. Anche su questo ci sono state le critiche sulla stampa, perché comunque continua a essere contraddittorio in parte, no? Contraddittoria la figura di Erdogan, nel senso che la Turchia ha un boom economico spaventoso, però poi sì. Parallelamente Erdogan, che ne so, vieta i domini internet, comunque mette un controllo assurdo, per esempio sulla rete e non solo, no? C'è questa È sempre lì questo confine strano, probabilmente per essere quello democratico, ma nello stesso tempo c'è anche i più integralisti che cerca di accontentare, quindi è veramente... Ma più che integralisti, nazionalisti, direi, in queste elezioni. E no, tu hai perfettamente ragione su quello che dici, perché Erdogan, tutti ricorderanno benissimo, è stato 4 mesi in carcere perché aveva letto una poesia di contenuto religioso, ma anche con delle insinuazioni a un colpo di Stato, eccetera, tra virgolette. E per questo è stato 4 mesi in carcere e parlava di libertà di stampa, eccetera, c'era il vieto su di lui, non ha potuto fare politica un certo periodo, quindi in quel tempo lui era un grande difensore delle libertà. E poi anche i primi 8 anni, a parte questo boom economico, è stato lodato da tutti, e lui per il progetto europeo della Turchia è stato un difensore dei diritti, ha diminuito il potere ai militari, e poi anche sulla questione curda ha fatto delle aperture democratiche. Adesso, certo, adesso poi osservatori europei anche diciamo cosa sta succedendo. Tra l'altro sui quotidiani di oggi c'è una forte rottura col governo siriano, nel senso che Erdogan comunque si è espresso, questo alleato storico che è la Siria, insomma, sta prendendo le distanze visto quello che sta accadendo in Siria. Sì, certo, perché anche qui, ecco, un'altra cosa che vedremo, sicuramente ci sarà un cambiamento dopo le elezioni sulla politica estera turca, perché ormai, come sapete benissimo, ciò che diceva il nostro ministro degli esteri Ahmet Davutoğlu, è anche un professore, e quindi zero problemi con i vicini, ma nella situazione attuale questa strategia ormai non funzionerà più, perché i nostri vicini sono pieni di problemi. Sì, sono complicati come vicini. Quindi su questo non si può fare una strategia. La Turchia vuole essere un attore globale, ma intanto nella regione già la situazione è completamente cambiata, quindi anche la politica estera dovrà cambiarsi. Poi la Turchia è stata anche criticata quando ha cominciato la crisi con la Libia, e c'è stata una certa considerazione di Gaddafi, quindi i passi diciamo con i ribelli sono stati fatti e dopo forse non vogliono ripetere lo stesso errore con la Siria. Certo. Visto come vanno come stanno andando le cose, insomma. Yasmin, mille approcci, mille ingredienti, no, legati a queste elezioni. Sicuramente ci ritroveremo, sai, nelle prossime puntate per raccontare quello che sta accadendo in Turchia e anche di questo strano progetto di dividere Istanbul in due città, che ho visto che, insomma, nella campagna elettorale. Ma sì, poi sai che questo è scoperto, che già era stato proposto dal leader di CHP, un partito di sinistra, Ecevit, quindi non è una novità, ma è stata lanciata come una novità. Sì, certo, ne parleremo. Grazie davvero e buon lavoro per queste giornate. Ciao, buona buon giornata. Sabato. The British Retail Consortium, the organization behind the new code of practice, says it wants to encourage parents who see unsuitable products on sale to make their feelings known. The launch of the code of practice coincides with the publication of a 6-month review. Lasciamo che i bambini siano bambini, è un po' questo lo slogan scelto dal primo ministro Cameron in Inghilterra, in questa sorta di decalogo che ha stilato, che va dalla messa al bando dei vestiti troppo sexy per i preadolescenti, la stretta sui contenuti dei programmi televisivi prima delle 21, niente cartelloni pubblicitari ammiccanti, insomma, una vera presa di posizione a tutela delle giovani generazioni. Questo sta accadendo in Inghilterra, ma non c'è solo questo. Per capire appunto altre derive legate a questo argomento, abbiamo invitato la nostra Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stai? Sto molto bene, grazie. Okay. Sono un po' imbarazzato nella prossima domanda, ma te la faccio, nel senso, vuoi che iniziamo dal dire che hai partecipato all'apertura di un Playboy Club o che oggi pomeriggio andrai alla Marcia delle Sgualdrine? Ecco, io mi aspettavo che tu mi chiedessi come mi stavo vestendo. Ecco. E posso dire che c'è uno spiraglio di sole, per cui potrei, nella mia scelta, potrei mettere reggiseni, minigonne e calze a rete, così come stanno preparando le donne che appunto si stanno già preparando con i loro cartelloni per essere a luna precisa in cima a Piccadilly per cominciare a marciare e per dire noi possiamo metterci quello che vogliamo senza per questo essere violentate. Esatto, perché oggi accadrà questa cosa, nel senso che è proprio una forma di non è un neofemminismo, ma è una forma di rivendicazione dei propri diritti, di fare un po' quel che ci pare, nel senso di poter uscire di casa vestiti come vogliamo senza dover essere additate come provocatrici, giusto? Esatto, questo è partito diciamo a Toronto, quando è stato addirittura un poliziotto che ha detto a un gruppo di studentesse di legge: se le donne non si vestono come sgualdrine non corrono il rischio di essere violentate. Quindi questo è come chiamare le ire delle femministe, e infatti il femminismo moderno è scoppiato con manifestazioni, sono state in Australia, in Nuova Zelanda, in Inghilterra sono arrivate, anzi in Gran Bretagna, in Scozia e a Manchester, e oggi appunto si ritrovano anche a Londra, in un momento appunto nel punto preciso dove proprio la settimana scorsa ha aperto il nuovo club di Playboy. E tu c'eri? E rido sotto i baffi. Sì, c'ero. Una di quelle cose che tu fai e poi ti penti immediatamente quando ci sei ancora dentro, perché se negli anni 60, ricordiamo aperto nel 1966, era diventato un punto di attrazione della swing in London per intellettuali e anche personaggi come Sean Connery e Michael Caine, ero lì per quello ma non li ho visti, sì. Adesso è veramente la fiera del trash, le conigliette sono tornate in Europa, non sono molto ben viste, non si sa bene che cosa ci siano tornate a fare se non per spingere su le puntate, sulle roulette, appunto il mondo del gioco d'azzardo, che diciamo non è quello più ben visto in questo momento in Inghilterra. Noi abbiamo accostato volutamente queste due notizie, tu ci hai dato un taglio giornalistico, però un po' l'opinione pubblica com'è? Cioè, è indifferente a tutto ciò? Come sempre, insomma, a Londra vale tutto, no? Quindi c'è tutto il contrario di tutto, ci sono prese di posizione, ma ce ne sono anche il contrario di quella presa di posizione. E c'è comunque invece in questo un umore, una sensazione comune, c'è una sorta anche lì di stanchezza, di basta, o invece c'è comunque attenzione? Allora, per quel che riguarda Playboy nello specifico c'è un po' di stanchezza, perché effettivamente si pensa che siano un po' retro, non stanno aggiungendo niente di nuovo nemmeno nella posizione della donna. Ricordiamo la difesa delle conigliette era: ma anche le donne hanno la loro voglia di esibirsi, di mostrarsi e di essere donne con la loro femminilità. Tutto questo sembra un po' scontato adesso, tanto più che stanno prendendo campo altre posizioni, come quelle appunto delle Slut Walk, oppure quelle di Cameron, che sta difendendo veramente le nuove generazioni, bandendo dai negozi cose come i reggiseni rimborsati per le bambine o le scarpette con il tacco, perché questo è anche un problema sociale. Ricordiamo che la Gran Bretagna ha il più alto tasso di gravidanze minorili in Europa, 40 donne su 1000 sono, 40 mamme su 1000 sono minorenni, quindi c'è un momento, devo dire, di grande interesse, perché stiamo cercando di capire dove stiamo andando, come unendo i diritti delle donne di vestirsi come vogliono e anche appunto il problema delle violenze e dello sfruttamento da parte del commercio, vuoi che sia un casinò oppure anche le pubblicità in TV. Certo, ecco, e queste politiche rivolte ai più giovani come sono prese? Nel senso che ogni volta, no, che c'è un po' il rischio di passare per moralista o bigotto quando fai delle scelte forti di tutela dei più giovani, personalmente insomma mi sembrano cose anche sensate, nel senso che non si sta parlando di censura, non si sta parlando di tornare al Medioevo, si sta veramente pensando di lasciare che i bambini siano bambini e non dei piccoli adulti, mi sembra un po' quella la politica reale. Sì, esatto, e fra l'altro, allora, al momento questo codice è in una fase di sperimentazione, per i prossimi 18 mesi vedremo come i rappresentanti del mondo del commercio, della pubblicità, dei videogiochi riusciranno a regolamentarsi volontariamente. Soltanto dopo appunto questa prova ci sarà un summit ad ottobre con tutti i maggiori soggetti interessati che lavorano nel campo dell'infanzia. Soltanto dopo questo diventerà legge, e allora a quel punto ci saranno anche, immagino, delle appunto diventerà reato certi comportamenti, quindi per ora siamo in fase appunto di studio ancora e sarà interessante vedere che cosa salta fuori, anche esempio per altre parti del mondo. Questo nostro codice di condotta è uno dei 12 che esistono nel mondo, quindi magari apriremo la strada a qualcosa di interessante anche in altre parti. Ma qualcuno ha chiesto l'opinione anche ai bambini o ai ragazzi? C'è stata qualche inchiesta, qualche intervista o è una roba solo tra addetti ai lavori, tra adulti? Questa è una buona domanda. Non ho francamente sentito alcuna intervista ai bambini, alle bambine soprattutto. Certo. Anche se in questi ultimi giorni non ho notato nessuna differenza nel modo in cui si vestono. Perfetto, quindi... O si svestono, perché... il limite, vero? È lì. E tra appunto il vestirsi e lo svestirsi, ti lasciamo alla preparazione della tua marcia. Hai dei fan, lo sai, tra Facebook e email, chiedono poi di poter vedere le foto, perché non è chiaro se andrai là come giornalista o come partecipante alla marcia, ma non vogliamo approfondire la cosa. Sarà documentato su Facebook. Perfetto. Giorgia Scaturo da Londra, come sempre, simpatica ed efficace. Grazie davvero. Ciao Giorgia, buon sabato. Ciao, ciao, ciao. E chiudiamo qua questa puntata dell'Altra Europa, che potete riascoltare in podcast dal nostro sito radio24.it oppure facebook.com/l'altraeuropa per trovare tutti i link. Un grazie a Claudia Carusi che con me ha scritto la puntata, con la collaborazione di Margherita Ina, in assistenza oggi Viola Bottoni, in regia Roberto Scaltritti. E noi con l'Altra Europa ci ritroviamo sabato prossimo alle 10. Io sarò in onda anche da domani alle 17 con Mine Vaganti. Si riparte con la nostra avventura estiva. Ancora ciao da Federico Taddia.